Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice. Charles Bukowski. Il genio è la punta estrema del senso pratico. Jean Cocteau. Il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso. Ennio Flaiano. Il genio è la capacità di vedere 10 cose dove l'uomo comune ne vede una o dove l'uomo di talento ne vede 2 o 3. Ezra Pound. Il primo dovere di un genio è dimostrarlo. Roberto Gervaso. Genio, dal latino genius, dal verbo genere, generare, creare, sul dizionario viene definito come quella speciale attitudine naturale atta a produrre opere di importante rilevanza artistica, scientifica, etica o sociale. Per riflesso, indica anche la persona stessa che quelle eccezionali capacità le possiede. Il concetto nella storia ha scomodato i più grandi pensatori che sulle facoltà della mente umana, sia dal punto di vista scientifico che da quello filosofico, si sono sempre interrogati. Uno su tutti? Kant, che sostiene che il genio sia la felice sintesi di immaginazione e intelletto, di spontaneità e regole non scritte, per cui un'opera d'arte, sia essa un dipinto, un racconto, un monumento o una composizione musicale, pur dovendo rispondere alle leggi di natura, è sostanzialmente espressione di libertà. Ma anche Guido Necchi, uno degli amici miei con un talento speciale per gli scherzi, ha una sua personale visione. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Sicuramente genio si nasce, ma qualcuno più di altri allena il proprio talento in modo tale da diventarlo. E a volte succede che la spinta a farcela a tutti i costi venga da una difficoltà da superare, come può essere un handicap. Suona come un paradosso, ma la genialità diventa un atto eroico, necessario per sopravvivere. L'astrofisico britannico Stephen Hawking, che ama ripetere di essere nato esattamente 300 anni dopo la morte di Galileo, aveva 21 anni quando gli è stata fatta la diagnosi di atrofia muscolare progressiva, malattia degenerativa dei neuroni motori. I medici gli avevano dato 2 anni di vita. Lui oggi ne ha quasi 70 e ha raggiunto obiettivi impossibili. Membro del Mensa, associazione a cui può accedere solo chi ha un quoziente intellettivo superiore a 148, ha una cattedra all'Università di Cambridge, la stessa che era stata di Newton. Ha elaborato un modello matematico che dimostra l'evoluzione dell'universo attraverso il Big Bang, compiuto importanti studi sui buchi neri, ed è autore del bestseller scientifico numero 1 della storia, Una breve storia del tempo. Ben 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Inoltre, sempre più immobile nella sua sedia a rotelle, ha fatto esperimenti in assenza di gravità perché sogna ancora di andare nello spazio. A questo personaggio incredibile, la BBC ha dedicato un film che porta come titolo solo il suo cognome, Hawking. Oggi sono 321 anni che Galileo è morto. Che coincidenza! Ha cambiato il nostro modo di pensare. La gente teme i cambiamenti. Io e mio padre venivamo spesso qui di notte a guardare le stelle. Una volta ho visto una stella cadente. Naturalmente era morta 20.000 anni prima, ma la notizia è giunta a St. Albans nel 56. La luce è veloce, ma non così tanto. Scusa, è da fissati. Manoel Francisco dos Santos era un ragazzino povero di Pau Grande, abituato a vivere da selvaggio, cacciando a piedi nudi gli uccellini, i gainsha, o come diremo noi, i garrincha, che gli avrebbero fatto guadagnare quel soprannome anche in campo. I medici gli avevano caldamente sconsigliato il calcio per via dei suoi molti difetti congeniti: un leggero strabismo, la spina dorsale deformata, uno sbilanciamento del bacino, 6 centimetri di differenza in lunghezza tra le gambe, varismo al ginocchio destro e valgismo al sinistro, nonostante un intervento chirurgico correttivo. Ma lui non ha mollato e palleggio dopo palleggio è diventato il più grande dribblatore della storia del calcio. Ray Charles non è nato cieco. Ha iniziato ad avere problemi con la vista a 5 anni e a 7 già non vedeva più. Il motivo di quell'handicap improvviso non è mai stato chiaro neanche a lui. Alcune ipotesi dicono che fosse per via di un glaucoma. Secondo altre fonti, la causa sarebbe stata un'infezione dovuta al contatto con acqua e sapone. Tant'è, ma fatto sta che alla scuola per sordi e ciechi, Ray impara a comporre e a suonare vari strumenti, mettendo le basi per quello che sarebbe diventato uno dei più grandi cantanti di sempre. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Attraverso la sua voce e il suo pianoforte, Ray Charles ha trovato la sua anima. La stessa cosa è accaduta al nostro primo protagonista di oggi. Nato con una malformazione dovuta alla osteogenesis imperfecta, meglio conosciuta come ossa di vetro, è un adulto che invecchia precocemente nel corpo di un debolissimo bambino, alto meno di un metro e dal peso di circa 23 kg. Tra i più apprezzati jazzisti francesi, vitalità impetuosa e sarcasmo disarmante, il suo nome e Michel Petrucciani. Michel Petrucciani. È stato un vantaggio avere quell'handicap. Mi ha impedito di avere altre distrazioni. Nel sud della Francia, regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, a una ventina di chilometri da Avignone, l'antica città dei papi, c'è Orange. Con i suoi quasi 30.000 abitanti, è un tipico paese provenzale con piccole piazze e con al centro delle fontane, nel quale la quiete si respira insieme all'intenso profumo di spezie che aleggia per le strade baciate dal sole. La cittadina vanta un arco e un teatro che sono stati inseriti nella lista dei patrimoni mondiali dell'umanità. Non stupisce la ricchezza di manifestazioni di alto livello, tra cui il Festival del Jazz, che a giugno rende omaggio proprio a Michel Petrucciani, nato qui nel freddo inverno del 1962. Il cognome non nasconde le sue origini italiane. Il nonno infatti è di Napoli, ma si trasferisce in Francia nella speranza di una vita migliore. Si sposa e dà alla luce il padre di Michel, Antoine. Forse il nome Tony Petrucciani, così lo chiamano tutti, non vi dirà molto se non siete dei cultori del genere, ma si tratta di un grandissimo chitarrista. Se Michel cresce con il jazz nelle orecchie, è senz'altro merito di papà Tony, che lo nutre con la sua ricca collezione. Prendevo in mano i dischi, li guardavo. Mi sembravano tutti speciali e meravigliosi. Mi ricordo che mio padre mi faceva scegliere quello che volevo e io cominciavo ad avere i miei preferiti. Ci sedevamo sul divano e tenevamo il tempo battendo le mani sulle ginocchia. Eppure il jazz non è certo facile. Non lo è in generale, figuriamoci per un bambino. Puro istinto, improvvisazione, ritmo swing spesso sincopato, poliritmia. Per questo o lo odi o lo ami, perché nella sua anima c'è la contraddizione. Raffinato al punto da essere elitario, in realtà la sua origine è popolare. È nato nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti agli inizi del XX secolo, quando per accompagnare il lavoro, gli schiavi africani cantavano le work songs caratterizzate da quel tono malinconico fatto di blue note, proprio come il mitico locale. In origine erano piccole band o pianisti solisti che se ne andavano a zonzo per il paese a suonare in occasioni di picnic, matrimoni, parate e funerali. Il repertorio, oltre al ragtime e alle marce, comprendeva inni, spiritual e blues. Il tutto modificato per divertirsi da sincopi e accelerazioni. L'epicentro è New Orleans, Louisiana. Le prime incisioni risalgono al 1917, quando un'orchestra bianca della città, The Original Dixieland Jazz Band, fa così scalpore che il termine Dixieland finisce per indicare lo stile di New Orleans suonato dai bianchi. Seguono altri due gruppi, uno nero e uno bianco, i New Orleans Rhythm Kings e la Creole Jazz Band, diretta da King Oliver, la cui seconda tromba è niente meno che Louis Armstrong. Lo straordinario improvvisatore che ha fissato i canoni per i cantanti a seguire, tra parole alterate e la voce usata come strumento attraverso la tecnica dello scat, tanto cara anche a Ella Fitzgerald. (Sussurra) Negli anni 20 il centro del jazz diventa prima Chicago e poi New York. Sul modello delle orchestre da ballo, molti musicisti incominciano a suonare insieme nelle big band, che diventano protagoniste negli anni 30 e 40, e la cosiddetta era dello swing. Duke Ellington, ad Harlem, è a capo dell'orchestra del Cotton Club e del jazz dà una definizione tanto personale quanto esaustiva. In genere, il jazz è sempre stato rappresentato come il tipo d'uomo con cui non vorreste far uscire vostra figlia. Michel Petrucciani ascolta suo padre che gli racconta tutto questo e molto altro. L'avventura del jazz, tra musicisti e aneddoti, lo appassiona più di qualsiasi cosa. D'altra parte, in casa è impossibile non respirare quell'atmosfera magica, visto che anche suo fratello Louis si esercita duramente per diventare bassista. Michel, quando ha soltanto 4 anni, l'età in cui i bambini sognano di solito di voler fare la ballerina o l'astronauta, ha la sua prima folgorazione. In televisione c'è proprio Duke Ellington che si sta esibendo. Lui indica lo schermo, ma i genitori non capiscono cosa voglia dire esattamente. Allora lui si avvicina e indica proprio il piano. Così gliene comprano uno giocattolo, ma lui lo colpisce con un martello fino a romperlo. Con quella determinazione che sarebbe stata la sua salvezza, sa già che ne vuole uno vero. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing. All you gotta do is swing. Makes no difference if that rhythm's sweet or high. Give that rhythm everything, everything you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Michel Petrucciani è un bambino di vetro. Così vengono chiamati i piccoli affetti da una malattia genetica piuttosto rara, all'incirca 1 su 20-30.000 nati, l'osteogenesi imperfetta. La definizione sottolinea la fragilità fisica di queste creature che spesso, come nel caso del nostro protagonista, reagiscono tirando fuori una forza d'animo inimmaginabile. La vita che gli si prospetta è difficilissima, tormentata dall'incubo della deformità e delle fratture che possono venire anche da un colpo di tosse o una risata. Neppure i denti vengono risparmiati. Diventano traslucidi e fragili, e nella maggior parte dei casi la persona colpita dalla malattia è di statura molto bassa. Ne è affetto nel film Unbreakable, il predestinato, Elijah, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, gravemente malformato agli arti inferiori e superiori, costretto alla sedia a rotelle, è un patito di fumetti e si convince che David, alias Bruce Willis, scampato a vari incidenti, sia indistruttibile, una sorta di supereroe. Pronto? Non mi sono fatto niente in quell'incidente. David. Non mi sono mai fatto niente, Elijah. Che cosa devo fare? Vai in un posto affollato. Non dovrai guardarti intorno a lungo. È normale che tu abbia paura, David. Perché questa parte non è un fumetto. La vita reale non si lascia imprigionare nel riquadro di una vignetta. Ma la vita non va spiegata, va vissuta, proprio come il jazz. E Michel Petrucciani punta tutto sulla leggerezza. Di fronte alla sfortuna di un corpo che rema contro, qual è la miglior arma se non lo spirito? Forte e nello stesso tempo sensibile, intenso e sarcastico, vuole vivere al 100% la sua vita, che sa che sarà breve, e sviluppa una capacità di suonare che è a dir poco virtuosa. Suo padre, che lo segue passo a passo, lo incoraggia a seguire le sue orme e gli compra un vecchio pianoforte a cui lavora macchinosamente per consentire alle corte gambe di suo figlio di arrivare ai pedali. This pedal was made by my father. Questo pedale me l'ha fatto mio padre quando ero un ragazzino. Avevo circa 13 o 14 anni, studiavo musica classica e tutti sanno che quando arrivi ad un certo livello bisogna usare il pedale forte, ma io non ce la facevo perché sono molto piccolo. Allora mio padre mi ha costruito questo pedale in legno, è l'impronta del mio piede e sul lato c'è il mio nome. Arriva il momento per questo talento da gigante racchiuso nel corpo di un bambino di esibirsi di fronte a una vera platea. In palio c'è molto di più di una semplice soddisfazione personale, di una gioia per quanto grande che proverebbe chiunque. In questo caso c'è un riscatto nei confronti della vita, della natura, che con lui non è stata benevola. È l'occasione di dimostrare a se stesso, prima ancora che agli altri, che può avere una vita normale. È il 1975 e siamo nel sud della Francia, dove Michel vive con la sua famiglia. Di lì a poco, da quelle parti, si terrà il Festival di Clues Club e il trombettista Clark Terry, che ha già suonato nelle più grandi jazz band americane con musicisti del calibro di Charlie Barnett, Count Basie, Quincy Jones e l'idolo di Michel, Duke Ellington, è arrivato in Europa per prendervi parte. Per prima cosa, per ambientarsi, chiede un po' in giro, vuole conoscere gli artisti locali. Tutti gli dicono che il figlio di Tony Petrucciani è senza dubbio il migliore. Lo sanno perché l'hanno sentito, perché ha qualcosa di miracoloso il fatto che un ragazzino nel corpo di un bambino suoni già come il più bravo dei professionisti. Ma questo particolare, cioè che sia un tredicenne, nessuno glielo dice. E così Clark Terry, quando al concerto si trova davanti un ragazzino che può arrivare al pedale del pianoforte solo grazie a un marchingegno, resta senza parole, non se ne capacita. Sono le prime note a fugare ogni dubbio. Cercavo un pianista. Mi serviva uno bravo che suonasse con me. Quando ho visto quel corpo piccolissimo sedersi sullo sgabello, sono rimasto attonito. Guardare la sua minuscola figura contorta fronteggiare quella tastiera enorme, vedere le gambe che spingevano i pedali allungati, all'inizio è sconvolgente, ma dopo pochi secondi te lo dimentichi. Credo che sia stata la grande forza di Petrucciani a far sì che la gente smettesse di guardarlo per ascoltare quello che aveva da dire con la musica. 2 anni dopo, a 15 anni, reduce da alcune date con Terry, Michel Petrucciani incontra Chuck Israel, il bassista di Bill Evans, un altro dei suoi idoli, uno di quei musicisti che ha sempre sognato di diventare ascoltando la collezione di papà. Israel si interessa a lui, gli chiede di raccontargli della sua malattia e si stupisce, come tutti del resto, dell'incredibile vitalità di quel ragazzo che non si arrende mai. Lo fa suonare e si accorge di quanto il suo talento sia speciale. Così decide di aiutarlo facendogli incontrare il batterista Kenny Clark. Una delle tante cose di cui Michel Petrucciani può andare fiero è di essersi guadagnato tutto sul campo, ottenendo ogni grande risultato con il sudore della fronte, con l'allenamento costante di un innato talento, mai da un qualsivoglia intenerimento da parte degli altri per via della sua complicata condizione fisica. E così, nel 1977, Petrucciani è a fianco del vibrazionista Kenny Clark, che parla così bene di lui nell'ambiente che in molti cominciano a considerare il ragazzo un cavallo di razza. Il risultato è un invito a registrare per la prima volta dei pezzi con il batterista Aldo Romano, il trombonista Mike Zwerin e suo fratello Luis al basso. È stato Romano a chiamarlo dopo averlo conosciuto in un villaggio turistico ed esserne rimasto artisticamente folgorato al punto da fidarsi di lui nonostante la sua ancora breve esperienza. Tra improvvisazioni e risate, i due registrano in uno studio di Parigi un'ora di musica a dir poco straordinaria. In poche parole, un successo sulle ali del quale si forma un nuovo trio. Romano alla batteria, Jean-François Jenny Clark al basso e Petrucciani al piano. Per il piccolo grande uomo che vuole sfidare la natura, è un passaporto verso la gloria. A destini incrociati siamo alla fine degli anni 70 e un giovanissimo ragazzo non ancora maggiorenne, cresciuto nel sud della Francia, è appena approdato a Parigi. Si chiama Michel Petrucciani, ha origini italiane, e suo padre, Antoine, è un grande musicista jazz. È stato lui a tramandare ai suoi figli e a Michel, in particolare, questa infinita passione per i ritmi sincopati che non vanno capiti, ma semplicemente goduti, facendo di questa musica colta e popolare insieme qualcosa che o si odia o si ama, senza mezze misure. Michel incomincia ad amarla in maniera viscerale, tanto che a 13 anni è già su un palcoscenico sotto gli occhi di Clark Terry, che ha suonato nelle più famose big band. Qualche data con lui e poi il primo album, inciso nella capitale con il batterista Aldo Romano. Non importa se la sua esperienza è ancora breve, ha già chiaro in testa cosa significhi per lui stare al pianoforte. Io amo il piano. Io amo la sensazione del pianoforte. Io amo, come dire, quando io sono seduto al mio piano durante un concerto e sento che alla gente piace. Questo mi fa sentire un calore dentro, mi fa sentire bene. È come fare l'amore, è come avere un orgasmo. Ecco, quando suono il piano mi dà la stessa sensazione. Il vantaggio è che non è pornografico e se lo faccio in pubblico non c'è niente di illegale. Una battuta che spiega meglio di qualsiasi descrizione il carattere di Michelle. Leggero, ottimista, onnivoro di vita e di emozioni, che cerca di trasmettere attraverso il suo magico tocco sui tasti bianchi e neri. Eppure, avrebbe molti motivi per abbattersi. Dalla nascita è affetto da una malattia congenita detta sindrome delle ossa di cristallo. Una fragilità della struttura ossea che impedisce al corpo di crescere e che lo deforma man mano che il tempo passa. Lui, anche adesso che dovrebbe essere nel massimo splendore della sua età, arriva a stento al metro di altezza e ai 25 kg di peso. Gli piace farsi portare in giro in braccio, specialmente dalle donne. Con una forza d'animo degna di un gigante, però, è deciso, senza troppi drammi, a fare esattamente la vita che fanno gli altri. Anzi, siccome gli altri frequenta gli amici, ha storie d'amore e problemi quotidiani, rispetto agli altri, però, ha una marcia in più. È un genio del jazz. ...1981, California. Da un aereo proveniente da lontano è appena sceso Michel Petrucciani, deciso a sfondare in America con il suo pianoforte e tutta la determinazione di cui soltanto qualcuno che vuole sfidare la natura può essere capace. D'altro canto, nell'ambiente, gli stanno dando ragione. È davvero bravo. Si comincia a sentire parlare di lui non più soltanto come figlio di Tony. E anche al Festival Jazz di Parigi la sua esibizione è stata un successo. Oltre oceano, però, è tutta un'altra cosa. È la patria dei grandi jazzisti, dei fenomeni che ha sempre preso a modello ascoltandoli nei dischi di suo padre. Anche se le cose cominciavano a girare per il verso giusto ed ero pronto a tentare il grande salto, ero certo che non sarebbe stato facile. Un piccolo uomo francese, non ancora ventenne, con un'infinità di problemi. Chi avrebbe mai puntato su di me nella patria del grande jazz? Invece il destino ha in serbo una grande sorpresa per Petrucciani. Così come lui, esuberante ed eccessivo in ogni suo gesto, aprirà presto gli occhi a qualcuno che non aspetta altro. La parte di California dove è diretto Michel Petrucciani è Big Sur, costa centrale, dove i monti di Santa Lucia sorgono a picco sull'Oceano Pacifico. Il panorama meraviglioso di mare, foreste, spiagge e sequoie attrae turisti e curiosi da tutto il mondo, tanto che questo è diventato un luogo d'elezione di artisti di più generazioni. Il regista di Quarto Potere Orson Welles e quella che era sua moglie nel 1944, l'attrice Rita Hayworth, ammaliati dalla sublime visione del paesaggio, comprarono d'impulso una casetta in legno. Come succede spesso quando non ci si pensa troppo su, il risultato è che non ci hanno mai passato nemmeno una notte. E la proprietà ospita ora un popolare ristorante, sulla cui terrazza, tra l'altro, danzano in The Sandpiper gli eterni amanti Elizabeth Taylor e Richard Burton. I Beach Boys, camicie colorate e spirito da surfisti, a Big Sur hanno dedicato una canzone e molte citazioni, così come hanno fatto i Red Hot Chili Pepper nel loro singolo del 2009 Road Trippin'. Il poeta beat Lawrence Ferlinghetti, amante della natura e della libertà, ne ha fatto il suo buon ritiro, dove ha ospitato tra gli altri amici Jack Kerouac, che dall'esperienza ha tratto un romanzo, Big Sur, per l'appunto. È ancora qui che Linus Pauling, chimico e tra le quattro sole persone ad aver vinto per ben due volte il premio Nobel, ha trascorso i suoi ultimi anni. Ed è sempre qui che Henry Miller ha scelto di vivere di ritorno dall'Europa, lasciandosi trasportare dall'atmosfera speciale di questo tratto di costa per scrivere molti suoi libri, tra i quali Big Sur e Le arance di Hieronymus Bosch. Ma soprattutto, è questo che interessa Michelle, a Big Sur vive uno dei suoi idoli musicali che ormai si è ritirato dalle scene, sebbene continui a nutrirsi nel suo intimo di jazz. L'ha conosciuto attraverso i dischi di suo padre e ora, invitato dal suo amico Tox Drawer, un batterista hippie che lavora nella sua proprietà, è andato in California per conoscerlo di persona. Fatica ad ammetterlo anche a se stesso, tanto l'impresa sembra eroica, ma a dirla tutta spera che questa colonna del jazz ritorni a suonare e che lo faccia proprio con lui. Il suo nome è Charles Lloyd. Charles Lloyd. Quando suono, il tempo va via e la musica è tutto ciò che sta succedendo. C'è questo stato di vuoto in cui il processo creativo te lo dimentichi, perché è la sensazione di tendere all'assoluto. Questa è la cosa che io adoro. Noi del jazz viviamo per questi tempi in cui la musica avviene e siamo tutto. È il 1938, quando Charles Lloyd nasce in un luogo che è anche un destino, Memphis, Tennessee, la culla di molti generi musicali americani come blues, gospel e rock and roll. Basti pensare ad Elvis, a Johnny Cash, a Rita Franklin, per farsi un'idea della potenza di questa città, dove la musica si respira per la strada. Lloyd non è immune dal fascino del sassofono. Quando ha soltanto 9 anni, anziché dedicarsi a passatempi più adatti alla sua età, dedica tutto il suo tempo a Phineas Newborn, il pianista che lo prende per mano, lo porta nel suo hotel e dice al suo sassofonista: «Questo ragazzino ha bisogno di noi». Serio, concentrato e deciso di vivere di musica già da quando è un ragazzino, Charles sa che l'improvvisazione migliore può venire solo da un solido studio, così come in tutte le cose. Bisogna conoscere perfettamente le regole prima di distruggerle. E così, dopo essersi fatto le ossa come strumentista nei gruppi di affermati bluesmen, nel 1956 si trasferisce a Los Angeles, dove completa la sua formazione musicale presso la University of Southern California, la più antica università privata degli Stati Uniti. Sono stati anni meravigliosi. Ho conosciuto un sacco di persone affascinanti. Suonavo dalla mattina alla sera e quando non suonavo ascoltavo gli altri. Ora che ci penso, sono stati pochissimi i momenti della mia vita senza un sottofondo jazz suonato da me o da qualcun altro. Poco dopo, il batterista Chico Hamilton vuole che diriga la sua orchestra. È una formazione famosa per suonare un jazz cameristico, tipico della West Coast, ma la presenza di Lloyd come arrangiatore, compositore e strumentista cambia tutto. La band si apre alle influenze post-bop, rinnova il suo linguaggio e diventa essa stessa il manifesto della sorprendente bravura di Lloyd. In questo periodo incide 2 album come leader per la Columbia Records, in collaborazione con alcuni giovani musicisti tra i quali spiccano i nomi di Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams. Il vero successo però arriva con Keith Jarrett, che ancora ha un talento in erba, ma destinato a diventare uno dei più grandi pianisti e compositori jazz d'America. Jarrett è spesso nervoso, pretende il silenzio per non deconcentrarsi, gli danno fastidio i rumori di qualsiasi tipo e il fumo. Ma a Lloyd tutto questo non importa, perché sa che insieme sono una bomba. Eravamo un quartetto. Io, Jarrett, il contrabbassista Cecil McBee e il batterista Jack DeJohnette. Jarrett faceva con noi quello che avrebbe fatto con il pubblico. Ci zittiva. Ma era un talento straordinario e l'esperienza con lui mi ha dato moltissimo. La musica del quartetto è un'interessante fusione di linguaggi, dal post-bop al free jazz al soul jazz. Niente di già visto, insomma. Il gruppo, vuoi per l'entusiasmo dei ragazzi, vuoi per il grande talento, ci mette pochissimo a ottenere un ampio consenso sia di pubblico che di critica, riuscendo del tutto inaspettatamente a oltrepassare i confini dell'ambiente jazzistico fino a conquistare fasce di pubblico normalmente interessate ad altri generi musicali. Arriva anche la consacrazione con l'esibizione al mitico Fillmore di San Francisco, il locale di Bill Graham, e il disco Forest Flower ha un enorme successo commerciale. Per Charles Lloyd la strada sembra essere ormai tutta in discesa. A destini incrociati siamo in California, alla fine degli anni 60. E Charles Lloyd, un giovane jazzista di Memphis, ha appena avuto un grande successo con la sua band. Un concerto al mitico Fillmore, un album con l'Atlantic Records, e attestati di stima sia dal pubblico che dalla critica. Finché nel 1968 il gruppo si scioglie e per Lloyd è un momento terribile. Non riuscivo a crederci. Provavo una tristezza infinita. Ormai ero un jazzista affermato, mi chiamavano a fare concerti, ma mi interessava sempre meno. Non il jazz, quello ce l'ho sempre avuto dentro, ma non mi interessava più esibirmi. Charles Lloyd poco alla volta si fa da parte, si mette ai margini delle scene. Ogni tanto, più per amicizia con i musicisti che perché ne senta l'esigenza, partecipa a qualche concerto come sideman, concede qualche collaborazione nelle incisioni in studio e in rare occasioni sul palco, ma di fatto praticamente scompare. Si ritira a Big Sur, uno splendido tratto della costa californiana che in molti prima di lui hanno già scelto come rifugio di pace. Vivevo nella foresta vicino a Big Sur, nella costa californiana, fin dal 1969. Volevo trovare un modo per cambiare me stesso. Una vita semplice, lontana dall'industria della musica, che non mi piaceva. Avevo preso brutte abitudini. droga soprattutto. Da allora ho continuato prima di tutto a lavorare sul mio carattere. Come miglioravo nel carattere, migliorava il mio suono. Il mio approccio verso la musica, quindi, non è didattico o tecnico, ma principalmente spirituale. Sono sempre alla ricerca di un suono migliore con il mio strumento, così che si possa fare un mondo migliore con la musica. Fino a quando, all'inizio degli anni Ottanta, il destino bussa alla sua porta. Michel Petrucciani, pianista francese dal corpo minuscolo e dall'anima imponente, vuole a tutti i costi conoscere il suo idolo ascoltato fin da piccolo nei dischi di papà. Affetto da sindrome delle ossa di cristallo, neanche un metro di altezza per neppure 25 kg di peso, è arrivato in America per sfondare, carico di tutto il suo entusiasmo. Lloyd ne ha sentito parlare e incuriosito lo mette alla prova. Bastano poche note e capisce di avere davanti un genio, un talento che pensa alla musica come a una serie di colori. Ogni volta che suono o che scrivo un pezzo è come se mettessi insieme dei colori, ma non come farebbe un pittore, sono colori che sento dentro. Qualche melodia è un colore acceso, qualcun'altra un colore freddo. Non si può spiegare a parole, è legato alle emozioni che ho dentro, che associo ad un colore. E diventa un modo interessante di sentire la musica. Tra i due è un colpo di fulmine artistico. Tra una risata, un bicchiere di whisky e infinite melodie, bastano poche ore, fino alle 5 di mattina, per convincere Charles Lloyd, lontano dalle scene da ormai 13 anni, a ripartire in tour con quel piccolo grande uomo arrivato dall'Europa. Venne a trovarmi Petrucciani e mi convinse. Non mi ero nemmeno accorto di quanto tempo fosse passato. Quando si va in una nuova casa e si comincia a pulirla, non si sa mai esattamente quanto ci vorrà. Possono volerci 6 settimane, come 6 mesi. Io impiegai una decina d'anni. Nella vita ho imparato che, se devi fare qualcosa, è meglio farlo senza pensare ai frutti che potranno arrivare o no. È il 22 febbraio 1985. Alla Town Hall di New York, in occasione di uno dei più grandi eventi jazz della storia, Charles Lloyd torna sul palco dopo quasi 20 anni di assenza. Portando Petrucciani tra le braccia, lo adagia sul sedile del piano e dà vita a una session straordinaria, immortalata dal regista John Charles Jobson in quello che è diventato un DVD culto per gli amanti del jazz. One Night with Blue Note. La carriera di Lloyd, grazie alla tenacia e all'entusiasmo di Petrucciani, ricomincia e continua ancora oggi. Lontana dai milioni di dischi venduti negli anni 60, ma più pura, consapevole, perfino spirituale, dopo il lungo periodo di ritiro a Big Sur. Io ho avuto la fortuna di poter lasciare la musica e poi di ritornare. Pian piano la mia carriera si è ricostruita. Forse non a livello degli anni 60 con milioni di dischi venduti, ma sono qui. Bisogna fare le cose soltanto perché le si ama. Se qualcosa ha una verità interiore, non si può tenerla all'oscuro per sempre. Michel Petrucciani gira il mondo in tournée con Lloyd e suscita ovunque entusiasmi incredibili. Approda a New York e, essendo uno che non si risparmia mai, viene seduto dagli eccessi della città senza sonno. Primo non americano della storia, firma un contratto con la Blue Note Records. Si esibisce e registra con moltissimi jazzisti leggendari come Roy Haynes, Jim Hall, John Abercrombie, Wayne Shorter, John Henderson, Joe Lovano e Dizzy Gillespie. La grande mela seduce, ma i ritmi sono vorticosi. Troppo per un uomo dalla salute cagionevole come Petrucciani, che decide così di ritornare in Europa. Si innamora e ha un figlio, portatore della sua stessa malattia, che oggi sulle orme del padre, di cui va fierissimo, fa musica elettronica. In Francia, il genio del pianoforte è al massimo della sua carriera. Diventa una star internazionale, i suoi dischi vendono centinaia di migliaia di copie e incominciano a fioccare i premi. L'ambitissimo Django Reinhardt Award, la nomina di miglior musicista jazz europeo da parte del Ministero della Cultura italiano. Nel 1997, a Bologna, si esibisce alla presenza di Papa Giovanni Paolo II in occasione del Congresso Eucaristico. A chi, preoccupato per la sua fragilità, gli consiglia di non esagerare, risponde con il suo solito sarcasmo. Ho già vissuto più di Charlie Parker, non male, no? Non ho mai preso troppo sul serio i premi. Sembra che la gente me li dia perché ha paura che morirò domani. Ma io non voglio morire domani, ho troppe cose belle. So che ho un handicap, ma ho sempre fatto una vita normale, anzi splendida. Potrei anche morire in un incidente di macchina o in aereo. Nonostante la forza d'animo che ha fatto il miracolo di farlo vivere fino a 36 anni, un tempo inimmaginabile, esausto da un ritmo di lavoro spaventoso, 220 concerti nel solo 1998 e indebolito nella sua salute già debolissima, nell'inverno del 98 Petrucciani, mentre è a New York, si ammala di polmonite e in pochi giorni si spegne, lasciando un vuoto incredibile come musicista e come uomo. La sua più grande lezione, però, è ancora tra noi. Le persone non comprendono che per essere un essere umano non è necessario essere alti 1,80 m. Ciò che conta è ciò che si ha nella testa e nel corpo, e in particolare ciò che si ha nell'anima.